Premendo il pulsante di emergenza a 3-5, le barre di controllo di volo si abbassano automaticamente, riducendo così la potenza. Ma l'operazione produce un effetto imprevisto e letale. Dal tetto del reattore! Si stanno sollevando i coperti! Ore 1:23. La pressione del vapore nel punto caldo non può più essere contenuta. 50 barre di controllo e di combustibile sono fuori uso. Ore 1:23. L'energia aumenta vertiginosamente. Il reattore è come un vulcano pronto ad esplodere. È andata via la luce! Ma che cosa sta succedendo? Akimov, che succede? Chiamate Stoner Chuk! Non c'è la luce! Fate presto, presto! Forse sono i degassatori. Fate presto, qui scoppia tutto! Provo a cambiare le regolazioni. Guardate, guardate! Velocemente! Ma perché non c'è la luce? Avete ascoltato una ricostruzione basata su testimoni oculari. A raccontare questa storia sono Boris Stoliarchuk, capo dell'unità di controllo di Chernobyl, e Alexander Yuvchenko, addetto alla salute delle turbine di Chernobyl. Dopo la prima esplosione pensai che il problema fosse uno scoppio idraulico nei degassatori. Stavo per cambiare le regolazioni, in modo da compensare in qualche modo, ma poi ci fu la seconda esplosione. Alcuni secondi dopo la prima esplosione, ne udimmo una seconda ancora più forte. Non capii cosa fosse. L'onda d'urto fu così forte che la mia porta si spalancò. Con il coperchio da 500 tonnellate scoperchiato e l'aria risucchiata dal fondo, il reattore si trasforma in una gigantesca fiamma ossidrica che disperde nell'atmosfera 50 tonnellate di carburante nucleare, una quantità 10 volte superiore alla bomba di Hiroshima. 700 tonnellate di grafite radioattiva si sprigionano per tutto l'impianto. Nubi di polvere vengono risucchiate dalla sala controllo, accompagnate da uno strano odore. La polvere è come un manto di un invisibile killer radioattivo. Gli operatori della sala controllo sono abbastanza lontani dal nocciolo del reattore da sopravvivere all'esplosione. Alcuni, però, rimpiangeranno di essere stati risparmiati. Molti di loro, infatti, andranno incontro a giorni, settimane, perfino anni di agonia, mentre le radiazioni li uccideranno lentamente da dentro l'organismo. Un nemico invisibile, quello delle radiazioni, contro cui è pressoché impossibile combattere. Dopo il disastro, in migliaia accorrono alla centrale per tentare di limitare i danni dell'esplosione, esponendosi così agli effetti delle radiazioni. Il rapporto ufficiale redatto dall'Agenzia dell'ONU dichiara 65 morti accertati e 4.000 decessi nel corso degli 80 anni successivi dovuti a tumori. Dati ancora oggi molto contestati, l'aumento esponenziale dei casi di cancro alla tiroide dei bambini sarà un'altra terribile conseguenza. Ma per i protagonisti della nostra storia, in quei momenti non c'è tempo per la paura. Prima è necessario capire che cosa è successo. Ascoltiamo ancora Alexander Sasha Yuvchenko, addetto alla salute delle turbine a Chernobyl. Quello che mi ha lasciato sgomento è ciò che è successo alle mura della mia abitazione. Erano di cemento armato, spesse almeno un metro. Li ho visti nell'angolo di camera mia piegarsi come fossero di gomma. Si è fatto subito buio. Le luci si sono spente, siamo stati tutti avvolti da un immenso vapore. Polvere, vapore, buio. Ed un orribile rumore simile ad un sibilo. Sì, un sibilo. Ho pensato a un terremoto, a una guerra. L'ultima cosa a cui ho pensato è stato il reattore. Viktor Dektorenko. L'ho riconosciuto solo grazie alla voce. La faccia era completamente arsa dal fuoco, coperta di sangue. Victor era sotto shock. Mi disse che era vicino alle pompe con Gennady Rusenovsky, il secondo addetto alle pompe, che Rusenovsky era rimasto lì e che dovevo aiutare gli altri. sei tu? Ho raggiunto Rusanovsky, tremava tutto, era terrorizzato. Mi indicò con le dita qualcosa e disse: io sto bene. Occupatevi di Kademchuk. È ancora nella sala bombe. E che cosa ho trovato? Macerie, distruzione. Se Kademchuk era lì, di certo era sepolto sotto tutte quelle macerie. Al posto del soffitto vedevo il cielo. Un cielo pieno di stelle. Pronto, Tatiana, mettiti in contatto con Pripyat, la centrale sta bruciando. Oddio, pronto Pripyat, rispondete. Sì, sentiamo. Dove è avvenuto l'incendio? C'è un'esplosione in corso negli edifici principali, le unità 3 e 4 stanno bruciando. Le unità 3 e 4? Sì. Allora c'è stata un'esplosione. Chiedo istruzioni, Pripyat. Mettimi in contatto con Uriev. Ricevuto, Pripyat, lo stiamo cercando. Devo allertare tutte le squadre? Mettimi in contatto con Denishenko. Va bene, vi mando anche Ivankovo e gli altri? Sì, sì, chiama tutti, Tatiana. Avete ascoltato la registrazione originale della prima telefonata d'emergenza. Ascoltiamo ancora Alexander Sasha Yovchenko, addetto alla salute delle turbine di Chernobyl. Alle 3 cominciai a vomitare violentamente. Erano i primi segni dell'esposizione alle radiazioni. Alle 6 non riuscivo a muovermi. Non potevo nemmeno trascinarmi al pronto soccorso. Poi mi hanno messo in un'ambulanza e mi hanno portato via. Sasha Yovchenko sopravviverà, altri invece moriranno. 30 persone, tra cui vari pompieri accorsi sul luogo, moriranno a causa di esposizione acuta alle radiazioni. Valery Kademchuk muore nell'esplosione mentre è nella sala pompe. Valery Peravachenko muore 6 settimane più tardi a causa delle ustioni da radiazioni riportate nel tentativo di soccorrere l'amico Kademchuk. Alexander Akimov muore 15 giorni dopo l'esplosione per avvelenamento da radiazioni. Poco prima di morire dichiarerà: ho fatto tutto bene. Non capisco cosa sia successo. Leonid Toptunov muore 3 giorni dopo Akimov. Fino all'ultimo reclamerà la sua innocenza, sostenendo di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità. Il capo ingegnere di Chernobyl, Nikolai Fomin, viene condannato a 10 anni di lavori forzati. Verrà rilasciato di lì a poco a causa di un grave esaurimento nervoso. Sasha Yovchenko è miracolosamente sopravvissuto, così come la moglie Natasha e il figlio Kirill. Ma le tracce di quella notte maledetta rimangono nella sua mente e nel suo sangue. Solo nel primo anno ho subito 15 trapianti. Le ustioni non sono comparse tutte in una volta. Le prime sono comparse quando ero all'ospedale di Mosca. E poi sono aumentate di dimensione. Ad un certo punto la mia pelle è diventata completamente nera. Quando mi toglievano il lenzuolo, la pelle si staccava a brandelli. Le ferite non guariranno mai. Il sangue non si coagula come dovrebbe. E poi ci sarebbero altre cose, ma ci si fa l'abitudine. Bisogna saperci convivere. Del resto non c'è altra via. Anatoly Diatlov è stato esposto a 390 rem di radiazioni. Nonostante si tratti di una quantità altissima, è sopravvissuto. Un infarto lo ha stroncato nel 1995. Ascoltiamo Sergei Jankowski, membro della commissione d'inchiesta sul disastro Chernobyl e poi ancora il viceministro dell'energia in Ucraina negli anni 2000. Io penso che il cambio di turno delle persone che lavoravano al blocco numero 4 con Alexander Akimov non c'entri. Con qualunque equipe di lavoro, sotto un capo come Anatoly Diatlov, che ha voluto eseguire il test con isteria e a tutti i costi, la tragedia sarebbe avvenuta lo stesso. Io la penso proprio così. È assolutamente chiaro che le persone che lavoravano quella notte alla centrale non sono gli assassini. Io sono convinto che neanche Dyatlov volesse quella tragedia. Condannato a 10 anni, Dyatlov ne ha scontati 4. In un'intervista rilasciata poco prima di morire, ha detto: nella lotta tra me e il reattore, solo ad uno può essere data la colpa. Quel reattore non avrebbe dovuto ancora essere messo in funzione. Il vero colpevole di tutta la vicenda è l'autorità per l'energia atomica. Non fornendo la corretta documentazione, quando e dove ce n'era bisogno, ha reso l'esplosione del reattore inevitabile. Il reattore si è comportato come era normale che si comportasse. La sfida tra Dyatlov e il reattore nucleare ha finito per distruggere entrambi. Tuttavia ancora oggi restano molti dubbi su cosa davvero è successo quella notte a Chernobyl. Riprendiamo il racconto dopo la viabilità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Bentornati su Mix 24, stiamo raccontando il disastro di Chernobyl e cercando di capire quali le cause e le conseguenze dell'esplosione del reattore numero 4 della centrale. Il nostro racconto riprende dalla città di Pripyat, oggi una città fantasma. Il 26 aprile dell'86 è una tranquilla mattina di sole. Le famiglie dei lavoratori sono all'oscuro di tutto e continuano la loro vita come sempre. Allora abitavo a Pripyat. Quel giorno festeggiavo il mio 4º compleanno. Avevo ricevuto una bambola in regalo. Era grande. Era più alta di me. Mi piaceva molto quella bambola. Non ho mai avuto il tempo di giocarci. Quel sabato 26 aprile sembrava tutto normale a Pripyat. Ascoltiamo Alla Andreeva, moglie di un capo operaio di Chernobyl. Ricordo che avevo comprato un mazzo di cipolle e mi servivano anche dei cavoli. Era una cosa strana perché c'era di tutto in vendita, tranne i cavoli. Domandai al fruttivendolo quale fosse il motivo e lui mi disse che i cavoli c'erano, ma che aveva avuto il divieto di venderli. La strana sparizione di alcuni generi alimentari è il primo di una serie di eventi che cominciano ad allarmare la popolazione, ancora ignara dell'alto livello di radiazioni. Sabato 26 aprile, ore 12. Ascoltiamo Yuri Vandrev e sua moglie Alla. Ci spingemmo fino alla periferia della città. Da lì si vedeva bene. E mi accorsi che nella parte centrale dell'impianto mancava il tetto del reattore. Era rimasta in piedi solo la parete rivolta verso Pripyat. Le altre parti del tetto si erano disintegrate. E c'era fumo dappertutto. Mezz'ora dopo Yuri tornò a casa con un'aria molto preoccupata. Mi fece spogliare la bambina e mi disse di metterla subito sotto la doccia. Mi disse anche di lavare i suoi vestiti e di restare chiusa in casa. Quando arrivammo alla centrale lo spettacolo era impressionante. Il separatore era venuto giù dal supporto. Si vedevano i tubi del vapore tutti rotti e aggrovigliati. Erano tubi da 150 mm di diametro. Mi resi conto che ciò significava che ora il nucleo del reattore era scoperto ed era a contatto con l'atmosfera. Le prime immagini del reattore distrutto risalgono alla mattina stessa dell'incidente e furono girate dal KGB. Anche se era chiara l'entità della catastrofe, passarono altre 24 ore prima che fosse presa la decisione di evacuare la zona di Pripyat. Ancora non sapevamo esattamente cosa fosse accaduto al reattore e cercammo di seguire le procedure di prassi. Ci avevano detto che la cosa più pericolosa era lasciare il reattore in attività senza refrigerazione. Così decidemmo di alimentarlo con l'acqua corrente. Avete ascoltato Viktor Brunkav, direttore della centrale di Chernobyl. Ma alimentare il reattore ormai distrutto con l'acqua corrente ha come unico effetto quello di creare nell'atmosfera una colonna di vapore surriscaldato. Ed è così che le radiazioni mortali si propagano in lungo e largo fino ad arrivare in Svezia, dove vengono intercettate dai sistemi di controllo della centrale nucleare di Forsmark. Dopo aver individuato enormi quantità di radiazioni nell'area, gli ingegneri della centrale atomica decidono di applicare le procedure di emergenza. La prima è far sgombrare il personale. Solo molte ore dopo, gli scienziati svedesi scoprono che le radiazioni provengono da una fonte molto distante. Studiando le condizioni meteorologiche, appare chiaro che il vento ha trasportato le particelle radioattive da una regione dell'Ucraina fino alla centrale nucleare svedese. Non è ancora mezzogiorno quando i funzionari dell'ambasciata svedese chiedono a Mosca spiegazioni. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sono le ore 21 del 28 aprile e il telegiornale sovietico con brevissimo comunicato dalla prima notizia ufficiale del disastro. Si è verificato un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Uno dei reattori è stato danneggiato. Sono state prese misure di sicurezza e sono scattati soccorsi per le vittime. Buonasera, vietata la vendita di latte fresco e verdura a foglia per 15 giorni. È vietata la vendita al pubblico e il consumo di verdure fresche a foglia. Più grave la situazione per il latte. Quello fresco resta invenduto, quello a lunga conservazione è quasi terminato ovunque. Venerdì 2 maggio dell'86. Il mondo intero saprà di quanto è accaduto a Chernobyl. Con grave e colpevole ritardo, per lunghe e preziose ore, le autorità di Mosca tentano infatti di tenere nascosto il peggior disastro nucleare della storia fino a quel momento. Darkness at my door. Knock, knock on my door. Generale Carlo Jean, esperto di geopolitica ed ex presidente della SOGIN, la società dedicata allo smaltimento delle centrali nucleari italiane. Cosa ha significato Chernobyl per l'Italia? Chernobyl per l'Italia ha significato sicuramente una maggiore forza degli antinuclearisti e lo blocco delle centrali che si pensava di costruire negli anni 80. E questo in termini di costi aggiuntivi nella bolletta dell'energia? Ma il costo dell'energia sicuramente è stato influenzato dalla scelta antinucleare e dalla preferenza data alle rinnovabili rispetto al nucleare. Teniamo conto che le rinnovabili, senza tener conto degli allacciamenti alla rete elettrica e così via, hanno sul costo dell'energia elettrica un'incidenza di circa 12-13 miliardi di euro all'anno. Questo per gli incentivi? Per gli incentivi. Ma oggi l'Italia è un paese a rischio pur non avendo centrali nucleari attive? Ma quello lì, la ricaduta radioattiva può avvenire. L'Italia in verità non è uscita dal nucleare perché continua a importare elettricità prodotta dalle 58 centrali nucleari esistenti in Francia, talune delle quali anche in prossimità delle Alpi. Quindi è come se le avessimo anche noi? Ma è chiaro che se succede un incidente nucleare, peraltro molto molto raro, teniamo conto che l'energia nucleare è l'energia più umanitaria, nel senso così che il nucleare produce meno morti per kilowattore prodotti rispetto a qualsiasi altra centrale, qualsiasi altra fonte di energia primaria, in particolare l'idroelettrico, teniamo conto per esempio Vajont, 3.000 morti. Chernobyl, il numero di morti varia da 65 valutati finora dall'ONU a 560 secondo altri studi, e ci sono 4.000 persone che dovrebbero morte durante il corso degli anni per tumori. soprattutto per il tumore alla tiroide. Qual è attualmente il principale problema per lo smaltimento delle scorie nucleari in Italia? Ma il principale problema non è un problema di carattere geologico, è un problema di carattere psicologico, politico. È difficile far accettare, anche con forti compensazioni, alle comunità locali di far accettare la dislocazione di un deposito, soprattutto di un deposito ad alta attività, che dura, la cui il rilascio dei terreni può avvenire dopo secoli. Quindi questi depositi non sarebbero rischiosi? A rischio ormai, diciamo così, gli studi effettuati dalle autorità che sono specialiste nel settore nucleare, in particolare della IEA, e anche negli altri paesi, hanno fatto vedere come le centrali nucleari producono queste scorie, soprattutto le barre sono particolarmente pericolose perché contengono plutonio, e la loro sistemazione in argilla, in sale oppure in granito, come sta facendo la Svezia e la Finlandia, è praticamente danno una sicurezza pressoché completa circa la conservazione in sicurezza delle scorie. Generale Carlo Jean, ma oggi avrebbe senso un ritorno al nucleare? Avrebbe senso, molti paesi, soprattutto dei paesi emergenti, stanno costruendo centrali nucleari. Comunque in Italia praticamente è una questione praticamente impossibile, sia da un punto di vista politico, sia forse anche da un punto di vista economico-finanziario, perché la costruzione di centrali nucleari, che richiede dei grandissimi investimenti, richiede un monopolista dell'energia elettrica. Senza monopolio dell'energia elettrica come l'EDF in Francia, cioè dovrebbe farlo lo Stato. Sì, però diciamo così, lo Stato non avvalersi di una società che è monopolista. Nel senso, dovrebbe avere i soldi per farlo. Ma se dà 13 miliardi all'anno di incentivi per le rinnovabili, i soldi non è che manchino in se stessi. Quindi si potrebbe fare? Da un punto di vista finanziario sicuramente si può fare, anche perché i sistemi di pagamento sono molto molto dilazionati, anche perché così come lo fa la Turchia, lo fa l'India, la Cina, la parte degli stati arabi come Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che stanno costruendo centrali nucleari, sicuramente l'Italia è un paese ricco, è un paese industrializzato, potrebbe sicuramente fare una simile iniziativa. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.